Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Oggi a Mix 24 va in onda il faccia a faccia della storia con Renato Guttuso, siciliano, pittore, comunista. Ha dipinto l'amore per le donne, l'impegno politico e i suoi valori. Renato Guttuso, pittore nato a Bagheria di Palermo, comincia a dipingere nella bottega di Emilio Nindoli, pittore di Carretti siciliani. È il leone della pittura italiana, occhi ardenti, un difficile e amaro sorriso, fronte ampia, voce suadente, generoso e gran lavoratore. Anche i nemici, e ne ha tanti, ne ammirano resistenza e buon umore, ma lui si dice malinconico. L'hanno chiamato il Nababbo del Pennello, il compagno miliardario, premio Lenin nel 1972, comunista iscritto dal 1940. Miscela di genio, grazia, mondanità e umori popolari. Dipinge i poveri, ma i suoi quadri li comprano prevalentemente i ricchi. Il primo quadro venduto, 400 lire, era una donna alla fontana. Ha tre case studio principesche, a Roma, a Velate di Varese e a Palermo. Membro del comitato centrale del Partito Comunista, dopo l'impegno ideologico è arrivata la fortuna e la ricchezza, e sono arrivate anche le malignità. Nell'82 il critico Maurizio Calvesi ha detto che Guttuso è ancora un pittore sconosciuto. Ecco, sconosciuto perché secondo lei? Beh, sono stato sconosciuto per tutta una fascia della critica italiana, per molti anni, per questioni ideologico-estetiche direi. Renato Barilli ha detto, il critico, ha detto Guttuso è fermo dal punto di vista della cultura agli anni tra il 30 e il 48. Lei come la prende? Ma non la prendo perché non prendo in considerazione quello che dice Barilli. Ancora Barilli però, ho una citazione, un'altra citazione di Barilli, dice che il suo limite sono la troppa bravura e il troppo mestiere. Che dice? Anche qui vorrei, non prende essere, vorrei essere più bravo, non credo di non essere abbastanza bravo, spero di avere ancora qualche anno di vita per imparare un po' meglio a dipingere. Ecco, perché non prende in considerazione quello che dice Barilli? Perché Barilli è un avanguardista e l'avanguardia è la cosa più vecchia che c'è oggi nella cultura del mondo. Senta, ma il rapporto tra l'artista e il critico, che tipo di rapporto è? Dovrebbe essere, qualche volta lo è, un rapporto di collaborazione, di integrazione in qualche caso. Qualche volta ci sono dei critici che illuminano l'autore sul suo stesso lavoro, cioè gli fanno scoprire qualche cosa che lui non sa. Senta, questo è molto importante naturalmente. Ma lei quanti quadri ha dipinto nella sua vita? Ah, questo è un po' difficile perché ho dipinto sempre da quando ero ragazzo. Non se lo ricorda. Non lo posso ricordare, posso dire una cifra così. Ecco, no, ma glielo chiedo perché volevo sapere se lei si ricorda più o meno tutti i quadri che ha dipinto. Cioè, le è mai capitato di vederne qualcuno che si era dimenticato? Ah, ma naturalmente moltissimi. Solamente che quando vedo una fotografia o vedo un quadro mi ricordo, se lo ricordo le circostanze. Sì. Ecco, no, glielo chiedo per capire qual è il rapporto in un certo senso tra il pittore e i suoi quadri quando escono dal proprio studio. Cioè, un rapporto di memoria, di nostalgia, non gli appartengono più o che cosa? Beh, sai, come i figli, non ti appartengono più ma ti appartengono sempre. Guttuso, le è mai capitato di ricomprare, di ricercare un suo quadro, di rivolerlo? Di ricercarlo no, ma mi è capitato di ricomprare dei quadri miei. Perché? Perché mi sembrava che stessero meglio nelle mani mie che nelle mani di chi li aveva. Senta, ma quanto costa il suo quadro? Ah, non lo so bene. Io so quanto li vendo, non quanto costano. Un quadro grande, per esempio, come la Vucciria, nel quale è raffigurato il mercato di Palermo. So che su questo quadro c'è stata una polemica a Palermo, quando il Consiglio Comunale lo voleva comprare e un gruppo di intellettuali si è opposto. Lei li ha accusati di qualunquismo. Perché? Com'è andata? Perché sono stato io che non l'ho dato al Comune di Palermo il quadro, ed era inutile che questi moralisti, io sempre metto la mano alla pistola quando sento o leggo un moralista, questi moralisti hanno voluto precedere le cose e farsi paladini di una moralità che il primo a difendere sono io. La mia moralità. Quindi lei era contrario anche? No, infatti l'ho regalato all'Università di Palermo. Senta, ma lei è un uomo ricco? Ma io sì, credo di sì. E le dico perché. Perché credo che l'unica ricchezza reale, concreta, è la ricchezza che viene dal lavoro. Una ricchezza che si accumula con i 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni. Ecco, non è la ricchezza del guadagno di 1.000 miliardi che poi perdi anche 1.000 miliardi, oppure vai a finire sotto un ponte di Londra, oppure vai a finire altrove. È la ricchezza vera è quella che si fa con il lavoro. Ecco, ma cosa rappresenta per lei il denaro nella sua vita? È uno strumento, come per tutti. Ecco, non che... ho un'adorazione per il denaro, non sono un feticista del denaro, tutt'altro, credo che quelli che mi conoscono lo sanno. Ma che cosa le piace di più fra tutto ciò che può avere col denaro? Non quello che piace agli altri, non mi piace avere uno yacht, non mi piace avere un aereo personale, mi piace vivere bene, comodamente e essere gradito ai miei amici, che è una cosa molto importante. Il denaro serve molto. Guttuso, lei ha paura di perdere i suoi amici? Non so di che cosa ho paura, credo che non ho paura di questo. Non vedo che ci sia questa possibilità, questa prospettiva, non credo che ci sia. No, perché diceva che il denaro serve molto, però. Allora dovrei avere paura di perdere il denaro, ma non ho paura, io credo al mio lavoro. Mi ha dato sempre da vivere, anche quando mi dava da vivere male. Senta, tornando al discorso del denaro, gli ho chiesto quello, perché lei un giorno ha detto: ammetto di aver raggiunto un certo benessere, ma il mio tenore di vita non è incompatibile con le mie idee politiche. Ecco, quando è che il tenore di vita di un comunista, secondo lei, diventa incompatibile con le proprie idee? Per esempio, se io facessi la speculazione, una speculazione qualunque, se giocassi in borsa, se investissi in appartamenti che dessi in affitto, oppure in costruzioni da vendere. La speculazione è in contrasto con le mie idee politiche, ma il frutto che viene dal mio lavoro, dove non c'è sangue né sudore di nessuno, tranne che il mio e delle mie mani, io trovo che sia perfettamente legittimo. Ecco, dal suo essere artista le deriva un potere? Lo sanno sempre gli altri se tu hai potere, tu non lo sai mai. Ogni tanto ti può capitare di accorgerti che hai un potere. E lei pensa di averlo? In qualche caso posso averlo, posso telefonare a un amico. E lo attira il potere? Non credo, perché non ho ambizioni politiche. Senta, il potere è molto connesso all'ambizione politica, all'aspirazione politica. Sono assolutamente fuori da questo. Senta, Guttuso, quando è che ha capito di essere un pittore? È difficile, perché bisogna andare molto, molto indietro. Ma qual è il momento allora in cui ha capito, diciamo, che la sua vocazione poteva diventare la sua professione? Guardi, io mi sono iscritto all'università in legge. Sì. Andavo a sentire le lezioni di lettere. Non ho mai sentito una lezione di legge. E sono andato a Roma lo stesso anno, sono entrato all'università nel 30, nell'autunno del 30, nel gennaio del 31 ero a Roma per la prima quadriennale romana. E già la mia vita era decisa. Avevo già deciso prima di iscrivermi all'università, l'ho fatto per far piacere a mia madre. Ecco, ma voglio dire, il momento in cui ha capito che la vocazione, cioè questa di cui sta parlando, poteva diventare anche una professione, qual è stato? Che sarebbe stata la mia vita, l'ho capito quando avevo 15-16 anni. Cioè. E il l'ho momento... sperato, se non altro. E il momento in cui ha avuto la sensazione che questa vocazione, questa scelta, l'avrebbe portato a vincere, cioè che ce l'avrebbe fatta, quando è capitato? Ma sai, uno sempre crede che ce la farà. Io pensavo che ce l'avrei fatta, poi non lo so se ce l'ho fatta, questo è ancora un altro discorso. Senta, Guttuso, glielo chiedo perché qualcuno dice che lei ce la fece veramente e definitivamente solo quando scavalcò Mafai e divenne il pettore ufficiale del Partito Comunista. Io non mi sono mai messo in condizione di scavalcare un mio collega, tanto più un uomo come Mafai che ammiravo e del quale ero amico, soprattutto ai miei inizi, poi naturalmente la vita divide e io non sono stato mai il pittore ufficiale del Partito Comunista. Ma lei sente di essere stato in qualche momento, come dice qualcuno, il custode del realismo socialista o no? Io contro tutte le correnti dominanti in Italia, contro i poteri reali che c'erano in Italia, che non erano quelli del Partito Comunista ma erano quelli di Leonello Venturi e delle persone legate al suo carro, io ho scelto le posizioni che erano credevo giuste, secondo la mia coscienza, secondo il mio pensiero, secondo quello che avevo imparato dal passato. Ecco. E mi sono battuto per questo. Poi c'è stato un seguito in tutto questo ed è diventato, senza che io lo volessi in un modo politico, è diventato un polo. Ecco. Uno dei due poli attraverso i quali si è svolta la vita artistica italiana. Ecco, parlando di questo, lei, discutendo con Moravia, ha detto: all'epoca di Togliatti non c'era nulla d'imposto, almeno per me. Se ho fatto dei brutti quadri è colpa mia, perché Togliatti non mi ha mai ordinato nulla. Ecco, non ha mai ordinato nulla né a lei né a nessun altro artista. Cosa vuol dire ordinare? Insomma, c'è una domanda diretta, come può avvenire nei paesi era una sintonia, quindi dove c'è una dittatura, dove c'è i paesi totalitari impongono delle cose, ma c'è anche un'imposizione, diciamo, larvata, una direzione di ricerca, Questa direzione di ricerca, che era, diciamo, ben vista da Togliatti e dal Partito Comunista, coincideva con quello che pensavo e sentivo io. Ecco, ma quali sono allora i brutti quadri a cui fa riferimento di quel periodo? I brutti sono quelli che vengono male. Perché niente di particolare. Ma... No, glielo chiedo perché Moravia, sempre Moravia, dice che in quel periodo lei comunque, per stare al vento, faceva una pittura di mondine e braccianti. È vero? Ma non stavo al vento, non era che stavo al vento. Allora Rossellini, per stare al vento, ha fatto fucilare Fabrizi. Ma lei lo ripiange quel periodo o no? Io non rimpiango niente del mio passato. Io credo che tutto quello che ho fatto nella mia vita lo dovevo fare. Nel 47... Era mio dovere morale, perché c'era una partecipazione della mia coscienza. Nel 47 Togliatti, con lo pseudonimo di Rodeghiero di Castiglia, bollò le avanguardie, lei ne ha parlato prima, come arte degenerata. Mi pare che lei era assolutamente d'accordo, quindi. No, non ero affatto d'accordo, tant'è vero che non ero d'accordo, che siccome tutti citano Togliatti e il corsivo di Roderigo, però non citano la risposta scritta da me, di mio pugno, e firmata da me, da Maffai, da Consagra, da Turcato, da tutti i pittori che poi si sono sentiti più liberi fuori. Io mi sono sentito sempre libero dentro. Mix 24, i faccia a faccia della storia. Senta Guttuso, parlando dei fatti di Ungheria nel 56, lei un giorno ha detto: quando si crede a qualche cosa bisogna anche avere la forza di inghiottire bocconi amari. Certo. Ecco, qual è la sua Ungheria? Più tempo passa, più bocconi amari si inghiottano. Ecco, ma la sua Ungheria qual è? Quella che le fa inghiottire bocconi amari? Ma non c'è un'Ungheria, perché le cose non sono così radicalizzate al punto di un paese in rivolta e tutto quello che è successo dopo. D'altra parte l'Ungheria fa impressione perché nel campo è avvenuto nel campo orientale, ma nel campo dell'America Latina di Ungheria ce ne sono alcune decine e nessuno si scandalizza. Guttuso, senta, lei mi ha già risposto in parte, ma lei non ha mai sentito in nessun momento la sua libertà creativa imprigionata nei vincoli ideologici? Mai. Mai? Perché se l'avessi sentito avrei fatto in modo di liberarmi da questa imposizione. Ecco, ma questa libertà creativa allora, questo senso della libertà dell'artista indispensabile, come la concilia lei con le notizie, diciamo con il dissenso artistico dell'Unione Sovietica? Ma io non vivo in Unione Sovietica. Io no, sono... ma come si correla lei con queste notizie che arrivano Io ho conosciuto, guardi, ho conosciuto un uomo che ritengo che è stato un uomo straordinario ed era lo scrittore Fadiev, capo dell'associazione scrittori. Lui era stato insieme con Pasternak e con Majakovskij, col gruppo della prima avanguardia sovietica, prima avanguardia russa e poi, dopo il potere sovietico, avanguardia sovietica. Quest'uomo aveva fatto delle autocensure gravissime, che naturalmente io, vivendo in un paese come il mio, prima sotto il fascismo, poi avendo preso delle posizioni come quelle che abbiamo preso in Italia, tanti abbiamo rifiutate, e non potevo rendermi conto, però capivo che questo era possibile in quel paese. E Fadiev è stato allo stesso uno scrittore di grande valore anche sotto la costrizione. Quindi lei non sente il bisogno di solidarizzare col dissenso? No, io non solidarizzo né con la costrizione né col dissenso in astratto. Ci sono dei casi particolari con i quali io solidarizzo, ma nella generalità, come fa di solito la stampa italiana, no, perché il dissenso diventa uno strumento di offesa. Ma lei è stato favorevole o no allo strappo con Mosca? Lo strappo, guarda, cioè distacco dal Comintern. Io penso che un'autonomia del Partito Italiano era necessaria, una maggiore autonomia anche pubblicamente. Senta Guttuso, dicono che lei ama molto i salotti, le feste e le mondanità, è vero o no? No. Non è vero? No. È una malignità? Può capitare ad andare in un salotto così. Ma non è un amore può particolare. Può capitare ad andare allo stadio o di andare... Senta Guttuso, qual è il suo peggior difetto? Il mio peggiore difetto? Sì. Ma forse l'impazienza. È un difetto, no? E qualche volta sì. Senta, è una qualità che non le riconoscono mai? Ma delle qualità le facciamo dire agli altri, non lo so quali sono le mie qualità. Senta Guttuso, nei suoi quadri ci sono molte belle donne nude. Cos'è che le piace di più del corpo femminile? Mi piace la donna. Senta, spiegando il perché dell'erotismo nella sua ultima produzione, lei ha parlato di un risarcimento. Risarcimento di che cosa? Adesso io non ricordo la frase, ma il risarcimento avviene... Questa è una cosa che d'altronde ne avevamo parlato anche con amici molto più autorevoli di me, il quale invecchiando diceva: io mi risarcisco disegnando dei nudi. Ecco, ma che importanza hanno avuto le donne nella sua vita? Direi, come nella vita di tutti gli uomini, un'importanza fondamentale. E l'amore? Anche, lo stai, le donne, considerando l'amore, non sono mica un donaiolo, un libertino o un playboy. Senta, lei ha detto che non c'è differenza tra arte sensuale e arte erotica. Cioè, cosa significa? C'è differenza tra l'arte e la pornografia. Questo sì che c'è differenza. L'arte erotica è un modo di dire sensuale senza dire la parola sensuale. Senta, Guttuso, ma è vero che gran parte dei suoi disegni di acquerelli erotici non li ha mai esposti? No, c'è un libro di disegni miei erotici dove ce n'è qualcuno un po' più spinto, ma credo di non avere mai, se non per divertimento, qualche volta quella sera con gli amici, con un whisky in più, si può fare un disegno pornografico anche, ma non esiste nella mia produzione una, diciamo, un angolo pornografico. Senta, ma chi è secondo lei il maggior pittore italiano del Novecento? È una risposta provocatoria, una domanda provocatoria. Il maggior pittore italiano del Novecento è De Chirico. Senta, lei è stato amico di Picasso, che cosa ricorda di più di lui? Ma ricordo la sua straordinaria intelligenza, la sua grande capacità di realizzare. Picasso... C'è qualcosa che gli invidia, che gli ha invidiato? Era la velocità, la rapidità, il rapporto che c'era tra concepire una cosa e farla. Io ho dei ritmi più lenti. E il pittore in assoluto che l'ha colpita di più, chi è? Nel passato? Sì. Questa è una domanda da un miliardo. ce ne sono molti. Per fortuna ce ne sono qualche molti. Nome? Per fortuna sono in imbarazzo. Ma io amo molto Raffaello, per esempio. Amo molto Caravaggio. Amo lei molto... di Raffaello ha detto che era il pittore più popolare. È un pittore profondamente italiano, Raffaello. Raffaello incarna una... Non so, devi pensare a Verdi per trovare un artista italiano così pieno, così profondamente radicato nella tradizione, nella vita, nell'alimentazione, nel clima italiano. Senta, lei è siciliano, cosa le manca della sua terra allora, diciamo, quando vive fuori? Ma sa, forse quando io ero ragazzo, quando ero giovane, se uno voleva camminare bisognava che andasse nel mare più grande, non andasse a nuotare in un mare più grande. Ecco, ma allora, diciamo, se lei adesso chiude gli occhi e da pittore pensa alla Sicilia, che cosa vede? Ma io la Sicilia ci penso anche con gli occhi aperti, no? Voglio dire, è sempre presente nel mio lavoro la Sicilia. Senta, Guttuso, a proposito di Sicilia e di siciliani, lei ha litigato violentemente, arrivando fino alle querelle, mi pare, con un suo grande amico, anche lui siciliano, Sciascia, che riferiva di averle sentito dire che anche Berlinguer credeva ai collegamenti internazionali del terrorismo, mi pare. Ecco, esattamente come è andata? Non ai collegamenti internazionali. Ah, ecco, come è andato esattamente? A un caso specifico. Intanto non ci sono state querelle tra me e Sciascia, ma solo polemiche sulla stampa. Il capodanno dell'83... era già avvenuto lo screzio, io gli ho mandato un biglietto d'augurio di buon anno come faceva moglie e lui mi ha risposto immediatamente con un altro biglietto di buon anno. Finito, non ci siamo più visti, ma credo che sia... No, non c'è niente tra me e Sciascia, tranne il fatto che lui si è incaponito su questa cosa che... Se l'ha inventata lui? Se l'è inventata, forse ci ha creduto, l'ha detto lui, ha creduto che l'abbia detto De Berlinguer, ma non poteva chiedermi un patto di mafia. In questo senso io non l'ho accettato questo patto. Senta, Guttuso, torniamo a pittura. Lei quante ore lavora al giorno? Dunque, io mi alzo un po' presto, relativamente alle abitudini dei miei amici. Alle 8:15 di solito sono in studio. Sì. E lavoro fino a che mi chiamano per lavorazione. E per il resto cosa fa nella giornata? Il tempo libero, no, c'è poi riposo un po' il pomeriggio, poi ricomincio. Ma a parte la pittura, voglio dire, appunto, che hobby ha? Leggo, guardo un po' la televisione la sera dopo cena, guardo soprattutto gli avvenimenti sportivi che mi piacciono molto. Che sport preferisce? Devo dire una cosa che scandalizzerà: lo sport che amo di più è la boxe. Come mai? Perché trovo che sia uno sport nel quale si concentrano l'intelligenza, il coraggio la forza e la lealtà. Ecco, a proposito, quindi quando la boxe è bella è uno spettacolo straordinario, quando è brutta è uno spettacolo orrendo, e allora ti viene voglia di farla abolire. Senta Guttuso, lei come pittore come si sente in questa società, diciamo, di computer, di comunicazione di massa, eccetera? Si sente... Io non lo so, io non so neanche accendere la luce, quindi dal punto di vista tecnico sono nero assoluto. E dal punto di vista artistico questa società se la sente funzionale o dal no? punto di vista artistico è un'altra cosa, perché il pittore, l'artista, insomma, chi fa svolge un'attività creativa deve vedere quello che c'è, però conoscere e tenere uno sguardo penetrante sulla società contemporanea non significa imparare a usare i computer. Ecco, ma lei non si è mai sentito un sopravvissuto rispetto a questa società, a questa dimensione? Ma può accadere qualche volta di sentirti un uomo del passato, insomma. A un certo momento ho pensato che perfino dipingere fosse un'attività perché? Remota nel tempo, perché i mezzi di trasmissione delle immagini sono diventati talmente... Ma non ha mai sentito per esempio la voglia di diventare fotografo, regista, non so? No. Usare le immagini in un altro modo? Uso molto la fotografia, amo naturalmente le immagini trasmesse meccanicamente e me ne servo perché considero che facciano parte della realtà di oggi. Senta Guttuso, un'ultima domanda. Lei in un articolo scritto sul Corriere della Sera, dove parla della sua esperienza di pittore della fuga in Egitto, al Sacro Monte di Varese, tra le altre cose, facendo una citazione, dice: risultò chiaro a un certo punto che anche nel sistema socialista si muore. Anche nel sistema socialista c'è motivo di chiedersi qual è il senso della vita. Insomma, la filosofia dell'uomo ha cominciato a bussare. Ha cominciato a bussare anche nel anche mondo sociale. Ecco, ha cominciato a bussare anche per lei? Ah sì, ma per me da molto tempo bussa questa filosofia. Cioè? Da sempre, da... Conoscere, cercare di capire la realtà, cercare di conoscerla, significa subito entrare nella zona del dubbio. No, glielo chiedo perché lei ha detto un giorno: se mi dicono che sono ateo mi sgomento. Cioè, cosa certo, vuol dire? Perché è già è un'affermazione religiosa quella di dire sono ateo. Io non sono ateo. Posso dire non sono credente, ma non sono ateo. Per risentire l'intervista a Renato Guttuso potete andare sul sito di Radio 24, cliccare su podcast, poi Mix 24 e scegliete.